Come nasce tutto ciò? Allora, l'idea di fare questo omaggio a Claudio Lolli non è partita direttamente da me, ma dalla mia collaboratrice, la cantante Chiara Campomori, con la quale abbiamo già da alcuni anni una collaborazione soprattutto incentrata sulla rivisitazione della canzone d'autore storica italiana. Infatti avevamo fatto in precedenza anche uno spettacolo dedicato alla scuola genovese, per intenderci Paoli, sì. De André, Tenco, Fossati, eccetera eccetera. Poi dopo lei mi aveva proposto: ma perché non facciamo un omaggio a Claudio Lolli, visto che tu con Claudio hai praticamente avuto un rapporto molto intenso, molto forte, sia in un lontano passato, parlo degli anni 76-77, dal 76 all'80 diciamo, e sia in tempi recenti, negli ultimi anni di vita di Claudio, dando vita insieme a lui al disco Il Grande Freddo, che è l'ultimo album di Claudio. Ecco, allora Chiara appunto mi aveva fatto questa proposta e io ero stato abbastanza restio, diciamo che mi sembrava quasi una specie di, chiamiamo così, un piccolo sacrilegio, perché mi sembrava un pochettino presuntuoso andare a rivisitare i brani che per me erano molto caratterizzati dalla presenza e dalla voce e dallo stile di Claudio. Però poi dopo, giustamente, Chiara mi ha fatto riflettere e ho pensato che alla fine poi le canzoni, al di là di tutto, hanno una loro vita, hanno un loro percorso, ed è giusto che vengano, diciamo così, riprese, riproposte, magari con arrangiamenti diversi. E nel caso di Claudio questo poi mi è sembrato proprio doveroso, perché l'ultima cosa che io vorrei è che l'opera musicale e letteraria, perché i testi nelle canzoni, sì, di Claudio sono fondamentali, venisse dimenticata. Siccome questo rischio oggettivamente c'è, perché non ho visto in giro grandi iniziative per ricordare Claudio e la sua opera, allora ho detto: beh, insomma, io bisogna che lo faccia. E così ci siamo messi sotto. Tranquillo che non si offendono le canzoni di Claudio Lolli, guardando un po' la line-up di musicisti che vanno a interpretare, gli ospiti speciali sul palco, per cui tranquillo. Gli ospiti sul palco sono una bella cosa, perché, perché in realtà, voglio dire, questo spettacolo è nato anche per essere fatto in due, volendo, però diciamo che così come Claudio mi aveva sempre raccomandato di cercare di coinvolgere i musicisti che più avevano condiviso con lui una parte del loro percorso, così anche in questa occasione io ho provato a coinvolgere il più possibile. Qualcuno non ce l'ho fatta per vari motivi che adesso non ti sto a dire, perché non è che ci possiamo dilungare, però quelli che sono riuscito a coinvolgere sono importanti. Se penso a Roberto Costa, che è stato insieme a me uno dei primissimi musicisti che ha cominciato a lavorare con Claudio, Roberto Costa ha fatto con me il disco degli Zingari Felici, per dire, poi dopo anche sui palcoscenici, vari palcoscenici, teatri, posti, piazze d'Italia, era con me a fare dal vivo i brani degli Zingari Felici e altri. Poi ha continuato anche Roberto a collaborare con Claudio, e poi dopo chi lo conosce sa che lui ha avuto anche una lunga collaborazione musicale con Lucio Dalla, molto importante, e quindi Roberto Costa c'è e ha un ruolo abbastanza importante perché è coinvolto in vari brani. Poi dopo volevo Paolo Capodacqua, che è un chitarrista bravissimo che ha lavorato tantissimi anni con Claudio, aveva aderito subito con grande piacere. È sopraggiunto un impedimento personale suo che non gli permette di essere a Bologna il 21, però ci ha mandato, diciamo così, la sua chitarra, nel senso che noi lo avremo simbolicamente ma anche musicalmente sul palco, perché i due brani in cui doveva suonarli lì dal vivo ci sarà la sua chitarra registrata. E poi c'è Felice Del Gaudio. Felice è un musicista che io adoro, un musicista e anche un amico, la cui collaborazione con Claudio è invece una cosa molto recente, perché l'ho voluto coinvolgere io quando abbiamo dato vita all'ultimo album di Claudio, di cui ho avuto la fortuna di poter essere, diciamo, il direttore artistico, cioè colui quindi che sceglieva un pochettino, certo, i musicisti che dovevano registrare, la formazione, gli arrangiamenti, il suono finale. Felice è stato per me un musicista fondamentale per determinare il sound del Grande Freddo. Lo conosciamo, musicista talentuoso, eterogeneo, di un'espressione artistica vasta. Mirko Menna sarà chitarra e voce, Alberto Pietropoli al sax. Esatto, soprano. Esatto. Hai già citato la voce di Chiara Campomori, ovviamente Danilo Tomasetta, storico sassofonista di Claudio. Quante emozioni, Danilo, ce la fai? Più che dal punto di vista artistico, dal punto di vista emotivo. sì, hai fatto una domanda centrata, perché alla fine bisognerebbe anche avere un pochettino così di distacco, di freddezza quando si fanno queste cose sul palco davanti al pubblico, e lì evitabilmente l'aspetto emotivo ci sarà, ma è anche giusto che ci sia. Poi spero di riuscire a controllarlo e quindi di fare lo stesso quello che devo fare, sia dal punto di vista musicale sassofonistico, sia dal punto di vista di parlare, di, certo, perché immagino che ci sarà un aspetto dialogico con il pubblico, appunto, oltre che musicale. Sì, assolutamente è giusto che ci sia, sì. Perché io credo che il pubblico se lo aspetti anche un po', nel senso che noi andiamo a fare lì un omaggio a Claudio per ricordarlo, e per ricordarlo, ok, ci vogliono le sue canzoni, ma ci vuole anche qualche breve intermezzo parlato che contestualizzi queste canzoni, e quindi sì, cercheremo, senza esagerare ovviamente, però tra un brano e l'altro ci sarà un minimo di dialogo, ecco, di presentazione, di contestualizzazione, come ho detto un attimo fa, sì.